questo momento sorridere mi fa molta fatica, però. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sono sgomento perché innanzitutto sono il capitano di questa squadra e questa è un qualcosa che veramente fa male all'anima, vedere la propria squadra essere sovrastata dagli avversari in un tempo, e più che altro vedere la propria squadra che non capisce l'importanza, ecco, della gara, e ha questo tipo di approccio, ecco. Questo tipo di approccio. Le assenze non pesano perché non abbiamo fatto un punto, altrimenti non sarebbero pesate. Credo che però la stagione della Juventus è iniziata bene, abbiamo vinto una Supercoppa che non dobbiamo dimenticarci, e dopo bisogna riprendere a lavorare come abbiamo fatto. Attraverso le difficoltà ritorneremo a fare le cose per bene, però direi che ci vuole molta serenità. E basta con i sogni. Ora sei tu che dormi, ora il dolore io lo conosco. Non dobbiamo noi grandi permettere una cosa simile, e più che altro, insomma, dobbiamo tutti tornare belli umili coi piedi piantati per terra, perché se si indossa la maglia da Juve, se non si ha la voglia di combattere, si rischia solo di fare delle figure ancora peggiori, ecco, che se si vestisse un'altra maglia. Giorgio De Luca, nostro dottore, Gianmarco Ferronati in regia. 800240024 e siete tutti convocati, compreso Pardo, che è in arrivo da qualche parte, prima o poi sbucherà di qua e arriverà in studio. Claudio Zuliani, buongiorno. Buongiorno, si fa per dire. Vuoi intonarmi Scende la pioggia? No, non te la voglio intonare perché non era una delle mie canzoni preferite da piccolo. Neanche delle mie, però scende. Preferivo Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Sì, a prendere tre punti, magari a prendere tre punti a Reggio Emilia. Possiamo dire da ieri sera, ore 20:47 più o meno, lo sai meglio tu di me, che lo scudetto è ufficialmente vacante e che l'allenatore, prima detestato e sputazzato, poi amato forse con riserva, ora sarebbe da bruciare sul rogo di Halloween come una strega altro che panettone? Guarda, sono le 14:12, è la quarta volta che secondi. Mi rivedo. No, è la quarta volta che mi rivedo la partita da stanotte, manco fossi l'allenatore della Juve. Sì. E devo dirti che è la quarta volta che ho visto la partita, non trovo il gioco se non Barzagli che ogni tanto fa l'ala. Quindi mi sembra che la situazione sia un po' grave. Quindi mi sembra che questa sia una risposta, sarebbe da bruciare sul ruolo di Halloween. No, senza esagerare, però senza che nessuno si offenda, perché poi quando fai una critica cade il mondo, si offendono tutti, però io sinceramente e sono tanti anni ormai che seguo la Juventus, ma avere Buffon che si sostituisce ai dirigenti e al suo allenatore perché viene per primo in conferenza e dice le a cose dire che abbiamo sentito. Fatto un approccio vergognoso, mi fa pensare parecchio, perché in altre situazioni o c'era l'allenatore sergente che parava i fulmini o c'era il dirigente forte. Qua c'è il portiere della Juve che si presenta, seppur da capitano, e dice che non abbiamo un gioco, che siamo vergognosi. Insomma, la situazione mi sembra un po' grave. Allora, quanto a ieri sera, un centrocampo che francamente abbiamo un po' tutti, compreso Pierluigi Pardo che sta entrando. Pierluigi, centrocampo della Juventus ieri sera. Ragazzi miei, come va? Molto bene, c'è Zuliani. Riprendi fiato, c'è Allegri anche che ha parlato del turnover, come sai. Sentiamo. È una questione di atteggiamento, di stare attenti, di essere reattivi, di essere responsabili. Poi non posso giocare, cioè lasciar fuori Khedira. Non è che lo lascio fuori perché, però veniva da 3-4 partite importanti, veniva praticamente da 2 mesi e mezzo di attività, devo cercare anche di gestire, altrimenti la rosa della squadra della Juventus sarebbe di 11 giocatori e 12 giocatori, e gli altri sono in grado di giocare la partita, però devono capire i momenti e come si giocano certe partite. Questo era Allegri, Claudio Zuliani rimane con noi, Pierluigi Pardo è appena arrivato, traffico, poi torniamo, 800 24 00 24, ancora sulla Juventus, che Pardo ha visto ieri sera, sì. E l'ha anche ovviamente raccontato. Sono andato a vederla. Andato a vederla, ormai ti dico così, posso? Sì, ti dispiace, sì. Mi dà fastidio. Va bene, domenica vado a vedere Lazio Milan. A vedere Lazio Milan, sì. Ok, mi porti? Sì, va bene, capitale, cacio e pepe. Strade. Sorriso amaro per lui, spot per noi, torniamo subito. Tutti convocati. Stufe, caldaie, termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Tutti convocati. Allora, Claudio Zuliani, che ha pochissima voglia di parlare, contrariamente al solito, Pierluigi Pardo, che ieri sera ha commentato la partita della Juventus. Zuliani critico, nel suo essere essenziale, poche parole Zul, però chiare, l'unico gioco che ho visto sono stati i lanci di Barzagli. No, non i lanci di Barzagli, ho detto che la quarta volta che ho visto la partita le azioni più entusiasmanti erano quelle quando Barzagli faceva il terzino ala e voleva sfondarla solo. Almeno mi davano un po' di emozione, perché non ce ne sono stati, e quella è la cosa pesante da vedere. Ma allora, io ti dico la mia. Posso dire la mia? È come direbbe Mughini. No, allora, sicuramente il bicchiere è vuoto, non è mezzo vuoto, è vuoto. C'è un nervosismo abbastanza impressionante, sì. Che secondo me, cioè a me la cosa che ha colpito della partita di ieri è che il Sassuolo era più smaliziato e più esperto della Juve, cioè gli errori banali, da quello di Lemina che insomma ha rischiato il secondo giallo, poi parliamo se vuoi dell'arbitro, c'era rigore se non è sulla Juve al primo minuto, lo detto in telecronaca, cioè Lemina perché era in Gervasoni campo, e i suoi collaboratori hanno fatto 28 cose discutibili ieri sera da una parte e dall'altra, però una serie di ingenuità come quella di Lemina, come quella di Chiellini che si prende il primo giallo al terzo, non per il fallo, per protesta, non per la prima protesta, non per la seconda protesta, ma per la terza protesta. È un fallo plateale quello, non è un fallo cattivo, ma è un fallo che c'è, non ti puoi arrabbiare con l'arbitro se ti fischia il primo fallo, parlo della prima ammonizione. E poi sul secondo pure c'è poco. Quindi questa mancanza di tranquillità, questa quasi mancanza di esperienza della Juve di ieri mi ha colpito molto. Non ha una ragione Buffon... secondo te, Pierluigi? Cioè, dove puoi trovare la ragione una squadra che è campione d'Italia, che è stata... Io te l'avevo detto ieri che secondo me la partita più interessante era Sassuolo Juve, per motivi oggettivi, perché il Sassuolo è una bella squadra, cioè non è che ieri la Juve ha perso contro nessuno, ha perso contro una buona squadra di alta classifica in questo momento, che secondo me potrebbe arrivare nel lato sinistro della classifica, che gioca un bel calcio fuori casa, su una partita comunque condizionata anche dagli episodi. Quindi, però il problema è che questa partenza handicap della Juve, che fa sì che debba fare un filotto di vittorie clamoroso, probabilmente porta del nervosismo anche a giocatori esperti. Anche a giocatori come esperti, Chiellini, quella cosa di Chiellini ieri è Lemina è un ragazzino. Lemina è un ragazzino, fa una cosa assurda. Cioè lì Gervasoni, anche Gervasoni lì fa una cosa assurda, perché certo, insomma come abbiamo visto alcune nella partita di ieri sera. Quindi, da dove arriva secondo tempo, scusami, l'ultima cosa, sì. 10 contro 11 secondo me il secondo tempo una buona Juve. Ma io una discreta migliore, Juve che ha schiacciato il Sassuolo tempo. E poi manca Tevez, manca Pirlo, cioè mancano poi i giocatori che trovano la soluzione. Ma sarà anche ora di dimenticarsi di questo. Certo. Zul. E sarebbe anche ora, perché sennò Natale fra poco arriva, attenzione, poi quando arriva, se i punti classifica sono meno 11. Natale quando arriva. Quando arriva i panettoni non li trovi più se non li compri prima. No, voglio dire, benissimo, è ancora questa strada gioventù, difesa della Juve di ieri, Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini. Dove sta la gioventù inesperta? No, c'è centrocampo. Benissimo. Allora, centrocampo, se non hai più le stelle di prima e hai Pogba che dovrebbe reggere, ma è ancora giovane, non creiamogli pressione, babam babam babam, col suo procuratore che in 2 minuti dice che vale 100 milioni, più pressione di così, vedi un po' tu. Se Marchisio all'ultimo momento viene preservato per il derby perché ha una sindrome influenzale, perché anche Khedira riposa? Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. Per far giocare nell'emergenza, dire che è giovane e nel secondo tempo Hernan è spagato 11 milioni perché entra a 2 minuti dalla ragazzi, fine. Nell'emergenza, nella partita di ieri, Khedira, Marchisio ha la febbre, che sfiga. Però, allora scusa Khedira, scusa ragazzo mio, ma oggi mi servi, riposi un'altra volta. Esatto, sono d'accordo. su questo sono mi sembra, sì, mi sembra che, ti ripeto, purtroppo lo stiamo a partite alterne analizzando, però una domenica sì l'altra pure, mi sembra che la grandissima annata dell'anno scorso abbia dato delle impressioni tecnico-tattiche errate e si è pensato di fare una rivoluzione anticipata, magari sbagliando alcune mosse, e l'allenatore dal canto suo ha pensato di avere la squadra in mano e invece probabilmente scricchiola, perché secondo me anche le dichiarazioni ieri di Buffon, perdonami, ma non ci vuole un genio a interpretarle. Insomma, Buffon, che arriva prima dell'allenatore, dice che noi che abbiamo un approccio vergognoso, che non giochiamo, sì. Non sono indirizzati a me, penso, No. Non ti sembra che ci sia una specie di, non dico spaccatura, ma una crepetta tra i vecchi, gli anziani e la pattuglia dei giovani? Mi sembra di sì, ma più che tra i vecchi, gli anziani e la pattuglia dei giovani, mi sembra tra i vecchi e gli anziani la pattuglia dei giovani, tra l'allenatore e la società, tra i dirigenti e la proprietà, tra tutti, cioè è una situazione. Io sinceramente questa cosa di Buffon l'ho sentita anche ai tempi di Del Neri, c'erano delle uscite abbastanza, di prese di posizione, di consapevolezza eccetera, ma un'uscita così dopo una presa di Buffon, cioè abbiamo giocato in maniera vergognosa. A me ha ricordato dov'è che eravamo, a Recife? No, sì. Non eravamo a Recife, quell'altro posto, a Natal. Mi ha ricordato quel Buffon lì, cioè lo stesso, quando Buffon la dice, la tocca piano in questo modo, insomma, è chiaro che sono parole di fuoco che valgono per tutti e che valgono veramente più di mille discorsi. Cioè, vuol dire che non gli va di fare queste figure, vuol dire che non è contento dell'impegno che c'è durante la settimana, che è deluso da una serie di suoi compagni di classe. Sì, di classe, vabbè, capito? Insomma, sì. Di squadra. Ecco. Compagni di classe. No, aspetta, Claudio, aspetta, perché è chiaro che Allegri non ha bisogno della maturità, ecco perché. Sì. Non, Allegri non ha certo bisogno di avvocati difensori, ma Giovanni Galeone è il suo mentore. Buongiorno mister. Buongiorno. Stiamo parlando ovviamente di Massimiliano Allegri, della sua pessimo inizio di stagione, possiamo dirlo. Voglio chiederle per prima cosa, sono con Claudio Zuliani per Luigi Pardo, se c'è stato qualche errore secondo lei di Max in questo inizio di stagione. Non lo so, qualche errore lo fanno un po' tutti, però a mio avviso non in inizio stagione, ma già alla fine dello scorso anno, sapendo di perdere dei giocatori importanti come Tevez e Vidal, la società avrebbe fatto meglio a vedere altri orizzonti che non spendere 40 milioni per Dybala. Io la vedo così e la vedo dall'inizio del campionato, cioè dalla fine dello scorso anno. A Max gliel'avevo anche detto. Ad aprile, con l'aria che girava a Napoli tra Rafa Benitez, Higuain e il presidente eccetera, andare con 60 milioni e portare a casa Higuain. Ma lui voleva Oscar, vero? Lo possiamo dire, voleva trequartista. Voleva il trequartista, ma voleva una punta soprattutto. Cioè Mandzukic è stato preso per Llorente e va benissimo, ma chi sostituisce Tevez? Dybala, secondo voi? Sono tutti che fanno un casino per sto Dybala, Dio buono, c'ha 40 milioni di euro, ha giocato nel Palermo, quante partite ha fatto in Champions? Se tu devi difendere una Champions, tu sei arrivato in finale di Champions e chi ti dà notorietà e visibilità in Europa è la Champions, non è il campionato. Quando tu vai in Champions, arrivi in finale, devi difendere quello, perché tra parentesi ti dà anche 90 milioni di euro, se non sbaglio. La Champions non sta andando male, e neanche Dybala sta andando male, questo va detto. Ma Dybala non va male, per carità di Dio, è un grandissimo giocatore, ma quante partite ha fatto in Champions? No, Quadrado, certo. Quante partite ha fatto in Champions? Cioè, il problema è la personalità, mister? Il problema è che non ci sono più i leader dell'anno scorso e non sono stati sostituiti? Il discorso è che, a mio avviso, naturalmente la mia è un'opinione, per carità, discutibilissima, però a mio avviso è che la Juventus l'anno scorso, anche negli anni passati, ma soprattutto l'anno scorso, era talmente forte da metà campo in su che riusciva anche a rendere meno evidenti le carenze che ha in fase difensiva, nei giocatori singoli e di reparto. Max è molto bravo a far giocare il reparto, così come lo era Conte, d'altronde, la difesa eccetera, sia la difesa 3 sia e quando ha provato la difesa 4 Allegri, no? Però il fatto è che la Juventus massacrava da metà campo in su, perché quando tu hai a metà campo Marchisio, Vidal, Pogba, questa gente qui, davanti ai Tevez, ai Morata, oppure tra i loro Llorente, o chi aveva insomma lì davanti, o Pereira, che si era inserito bene nel contesto di quella squadra lì, è evidente che giocavi 70 minuti dalla parte di là, sì, e avevi della gente che la buttava dentro. Sì. Quindi le cose, gli errori della difesa venivano minimizzati. Adesso non so, però io sono sempre dell'idea che se fosse stato Moggi nella Juventus adesso avrebbe ribaltato mezza squadra. Cioè, se il cambiamento doveva essere fatto in un'altra maniera. Beh, soprattutto per difendere dei risultati che l'anno scorso sono stati fantastici. Certo. Perché la Juventus ha vinto la Coppa Italia, ha vinto il campionato, è andata in finale di Coppa dei Campioni, non ha mica fatto ha fatto la stagione praticamente perfetta. Ma io in questo ribadisco l'orgoglio. L'estate ha dovuto ricominciare giocando una partita inutile per una Supercoppa inutile, che è utile solo se la perdi, contro una squadra che aveva già battuto in finale di Coppa Italia, insomma. Dopo vengono tanti infortuni, i nuovi fanno più difficoltà in inserimento, c'è stato l'infortunio di Chedira, che è un giocatore piuttosto importante all'inizio del campionato. Cioè, adesso non è per trovare delle giustificazioni a Max, che probabilmente deve anche abusare un po' troppo di questo turnover, perché ieri a Sassuolo ha giocato con una squadra insomma che sì, non era una buona squadra, ma non sicuramente una squadra che poteva fare man bassa lì a Sassuolo. Sì, sicuramente. No? Ecco, Claudio Zuliani, hai sentito la considerazione di Galeone? Se ero dirigente della Juventus, andavo a Napoli, prendevo Higuain, miglior giocatore del campionato italiano, forse l'unico vero fuori classe che c'è in questo momento in Italia, e ciao. Probabilmente non gliel'hanno venduto, perché mi ricordo che De Laurentiis aveva detto che costava 100 milioni quando si è scritto sui giornali che la Juventus era interessata, così come Cavani, che mi risulta che la Juventus anche abbia Anzi, seguito, no, famoso discorso su Anzi che ha fatto De Laurentiis, probabilmente è quello, però il discorso su Dybala invece è più corretto. Secondo me Dybala diventerà un grandissimo giocatore, però non puoi nel momento della rivoluzione affidare a un ragazzino che arriva dal Palermo costato 40 milioni tutta la responsabilità di caricarsi la squadra sulle spalle. Abbiamo vissuto un mese su Dybala qui, Dybala là, e si è perso di vista quelli che sono i problemi reali della Juve, purtroppo, che rimangono tanti. Tra l'altro, una società, visto che ha citato Moggi Galeone, e io mi ricordo benissimo, visto che c'era il padre, voglio dire, di Andrea ai tempi nella Juventus, c'era Moggi direttore, che per un semplice settimo posto di Lippi disse: il problema sono io, arrivederci. Quindi? È quella squadra lì, no, nel senso, quindi mi sembra invece che la situazione quest'estate è stata vista un po' con troppa leggerezza. Cioè, la Juventus non è mai stata la squadra che vabbè, fa niente, pazienza, succede. In genere, certo, i cambiamenti di direzione vengono presi pesanti, quindi il mercato in un certo tipo, la questione tecnica in un certo tipo, non è che sfiga. Ma Claudio, così giriamo la domanda a Giovanni Galeone, poi vi saluto entrambi. La principale responsabilità di Allegri in questo momento, secondo te, qual è? Turnover, cattiva gestione della preparazione atletica? Secondo me lui è venuto dopo Conte ed è stato molto bravo a gestire l'anno scorso e ha dato più serenità a un ambiente che magari era troppo sulla corda. Forse ha pensato che questo poteva diventare un dogma, invece in realtà, e qui sono d'accordo con Galeone, questa squadra ha delle problematiche che se non va al 1000 per 1000 non è in tensione, e vengono fuori anche col Sassuolo. Mister. Perfetto, analisi perfetta, c'è poco da aggiungere. La società l'anno scorso non è stata brava, è stata fantastica, sia nel proporre il nuovo allenatore, sia nella difesa del nuovo allenatore quando le cose non andavano benissimo, o quando c'era stato qualche piccolo intoppo, e quest'anno invece non si è resa conto di quale doveva essere il primo obiettivo, che era un obiettivo di grandissimo prestigio, che era la difesa della finale. Certo. Perché io non dico che tu devi andare in finale di nuovo, perché è difficilissimo, però se sei andato in finale devi arrivare nelle prime quattro, perché quando arrivi nelle prime quattro hai una visibilità diversa e anche l'avversario verso di te ha un rispetto diverso. Sì. La Juventus di quest'anno non fa paura a nessuno, non fa paura a Sassuolo come non ha fatto paura al Frosinone o all'Udinese. E diciamoci la verità, Max deve purtroppo cambiare un po' spesso la squadra, non ha la squadra degli 11-12 giocatori. una società che vince, una squadra che vince, è una squadra che ricorda in memoria, non c'è niente da fare. Questo è vero, questo è vero. E allora quando dai una linea e un volto a una squadra, tu hai dei risultati. Quando devi cambiare troppo spesso per la storia dei turnover, per la storia di cominciare così presto il campionato, di mettere dei giocatori che non sono di livello europeo, nel vero senso della parola, nel formare proprio un nuovo gruppo, è difficile. Sì. Soprattutto quando devi ricostruire una squadra. La stessa cosa, certo. Milan, quando è andato via Nesta, quando è andato via Ibrahim, quando è andato via Thiago Silva, Gattuso e tutta l'anima del Milan, è chiaro che il Milan è rimasto in mutande. Non è che lì che risolvi comprando quello lì a 25 milioni, che dici che è forte come Nesta e ai piedi di Zidane. Questo uno che dice così è già cancellato intanto, poi si vedrà insomma. Grazie a tutti, grazie mister. Ciao, mister. Grazie, ciao, mister Galeone. Ciao, grazie, ciao, Claudio Giuliani. Andiamo di corsa con la borsa 80024. Di corsa con la borsa. Corsa con la borsa. Di borsa con la corsa. Via. Bene, molto bene. Il trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Tutti convocati, anche per Luigi Pardo, oggi è arrivato come un fulmine da Reggio Emilia. È arrivata anche la signorina Ligios, che si occupa di marketing, Ligios, che è salita al terzo. Che succede? C'è Giorgio De Luca che, hai notato, c'ha praticamente la maglia del Napoli oggi. Dispiace che non sia visibile. Adesso scatteremo una foto e la metteremo sul profilo Twitter, perché ha questa maglia, perché ha una camicia bianca sotto e un maglioncino celeste che fa un po' Napoli o Lazio dei tempi, degli anni 70. Beh, adesso Napoli ha la maglia di una tonalità un po' più sembra scura. Tipo Garlaschelli, sembra Agostinelli, sembra così, una cosa, no. Sembra Andrea da Reggio Emilia. Andrea da Reggio Emilia, magari ci siamo visti ieri, dove eri? Io ero a casa a vedere Napoli-Palermo. Vabbè, quindi sei curioso di vedere, tua, di vedere il maglioncino del signor De Luca, forse più Lazio che Napoli, anni 70, però anni 70, roba. Allora sarà celeste il suo maglione, perché noi siamo gli azzurri, quindi. Sì, lo so. Qui, ecco, diciamo, le basi del mestiere le ho imparate. Dimmela. No, volevo esprimere la mia contentezza per questo andamento in campionato. Sono felice che ci siano al primo e al secondo posto la Roma e il Napoli, che è vero, una giocando molto bene il Napoli, l'altra un po' meno, stanno però sfruttando e riuscendo a ottenere punti anche grazie all'apporto di giocatori che sembrava dovessero andare via o che sono stati messi da parte negli anni scorsi, come nel caso per esempio di Jorginho. Questo e anche diciamo, di Gervinho, esattamente. E questo, se facciamo un confronto con quello che hanno speso Inter e Milan, insomma, va a finire che il paragone è un po' impietoso. Voi cosa ne pensate? Ma io condivido la soddisfazione, nel senso che credo che il calcio, come diciamo l'altro giorno, che il calcio italiano, essendo appunto italiano, non essendo soltanto quello del nord o soltanto quello del sud, insomma, se ci sono delle protagoniste che non hanno vinto tanto nella storia, che si affacciano però con delle piazze calde, bellissime, si affacciano all'alta classifica, questa cosa penso che debba far piacere a tutti, al di là del fatto che poi ognuno avrà la sua squadra del cuore, però è un fatto di ricchezza secondo me per il movimento calcistico italiano. In generale mi sembrano sempre le due favorite, anche se poi ribadisco quello che ho detto ieri. Poi c'è subito l'ascoltatore che mi ha detto: ma no, ma l'Inter fa schifo, gioca male. L'Inter comunque è in quella situazione, la Fiorentina è in quella situazione, però sicuramente Napoli e Roma danno la sensazione di avere qualcosa in più, ma la danno da parecchio, cioè è un mese che diciamo questa roba. La Roma non sono d'accordo sul fatto che non giochi altrettanto bene. Nelle ultime partite secondo me la Roma sta giocando molto bene. È un calcio diverso. E Leverkusen è stato il primo vagito, come cantava Venditti, primi vagiti nel 68, ancora lungo da venire, troppo breve da dimenticare. Ecco, no, mi è sembrato veramente il primo vagito di una squadra completamente diversa. Quel giorno, come ricordavo, c'era tanta depressione per il risultato a fine partita, però poi alla fine sì, è stato bravo Garcia. Ricorda la prima Roma di Garcia, non a caso con un Gervinho atomico e con Dzeko che rimane al momento un corpo abbastanza estraneo. Sì. Paolo Condò, buongiorno. Buongiorno a tutti. Come saluti. Stai? E la Triestina? Ah, bravo, dovevo comprarla noi, Pier. Dovremmo comprarla noi perché altrimenti. Ma tu ogni quanto vai a Trieste? No, troppo raramente, non girare il coltello nella piaga. Manca, per essere vero. No, io è una settimana che insisto sullo slogan, adesso bisogna che lo cambio. Benvenuti al Sud per quanto riguarda lo scudetto. Ma scusi, lei è Carlo Genta di Gazzetta TV. grandissimo, Grande cross promotion. Lei è Paolo Condò di Tiki-Taka, Paolo Condò di Sky. Ma ci vogliamo sempre bene. Assolutamente. No, allora, benvenuti al Sud, oltre che a Gazzetta e a Radio 24. Benvenuti al Sud, era ora. Era ora, sì. Era ora che il campionato si riequilibrasse dopo tutte queste stagioni nelle quali, cos'era? Prima l'Inter con Mancini e Mourinho, poi la Juventus con Conte e Allegri. Siamo ben oltre il decennio, mi pare, di dominazione nordista. Beh, ormai scudetto vacante, no? Siamo tutti d'accordo su questo, perché mai nella storia una squadra con 12 punti dopo 10 partite ha vinto lo scudetto, 4 sconfitte è il limite invalicabile, le colonne ad Ercole oltre le quali non vai, no? Anche perché, voglio dire, la Juventus ha un grandissimo obiettivo alternativo che è la Champions League, e quindi io credo che fatalmente a questo punto la testa si sposterà lì, dove è ben viva, dove ha ricche possibilità di passare il turno da prima, quindi di affrontare un ottavo di finale abbordabile e quindi di ritrovarsi quasi per forza di inerzia dopo l'impresa di Manchester, perché alla fine la partita che salva fino a questo momento la stagione della Juventus è la vittoria in casa del Manchester City, perché con quel risultato tu puoi arrivare ai quarti di finale della Champions, insomma è un bel vivere, sì. Ai quarti finale della Champions, qual è il problema? Il problema è che per confermare la Champions l'anno prossimo dovresti vincerla e questo comunque è estremamente complicato, perché in campionato non guardo tanto agli 11 punti di distacco dello scudetto, che probabilmente ieri è stata detta la parola fine, ai 9 della zona Champions, nelle cose sono i 9 della zona Champions, 9 della zona Champions con le squadre davanti che volano, sì, letteralmente, perché Roma e Napoli stanno volando, la Fiorentina è in scia, Fiorentina perché soprattutto è stata bravissima ad uscire da un momento un po' così, che per forza deve attraversare, e io sono convinto che prima o poi ne parlavo prima con Pierluigi, prima o poi lo attraverserà anche il Napoli, un momento un po' così. Hai qualche dubbio? Io guardo il calendario del Napoli e vedi, non so, secondo me, ma non ti dico nell'immediato, però no, però la mia sensazione è che il Napoli possa andare in fuga, e possa andare in fuga, c'è anche la Roma che può andare in fuga, adesso Inter-Roma chiaramente è una partita da spariglio, tutte e due, no? Potrebbero andare, ma anche l'Inter può andare in fuga, ma anche la Fiorentina, ma diciamo tutte, no, la fuga, la sensazione che in questo momento il Napoli sia una squadra dominante, la Roma sta diventando una squadra dominante, sì. La Roma di due partite fa contro l'Empoli era una squadra ancora un po' involuta, che senza quella punizione di Pjanic probabilmente non sarebbe riuscita a sbloccarla, che poi ha vinto, poi c'è stata Leverkusen e poi ci sono state due partite belle, sì, due partite veramente belle, due partite di alto, cioè andare 2-0 ieri dopo 10 minuti è proprio il segno della grande squadra che non vuole rischiare nulla, della grande condizione, della anche grande mentale, condizione, quindi, sì. Ragazzi, fermiamoci un attimo per il traffico e poi vorrei approfondire invece a proposito di Napoli, perché mi ha divertito molto il caso Insigne-Sarri, con Sarri che va da una parte a una TV e dice una cosa, va a un'altra TV, ne dice un'altra, e Insigne che non capisco perché si incazza, Martens che fa le facce, Gabbiadini che è in gabbia in panchina, insomma mi sembra un bel tema. Torniamo subito. Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Tutti convocati. Con Pierluigi Pardo qui con me, Paolo Condò al telefono. Volevo tornare su su Napoli di ieri sera. Partita come al solito la grande squadra del Napoli, meraviglioso gol di Higuain e siamo a numeri pazzeschi da Cristiano Ronaldo, 8 gol in 9 partite, nelle ultime 9 partite, 10 su 13 giocate fin qui tra campionato e coppa. Poi esce Insigne, che fin qui è stato uno dei trascinatori del Napoli, e si arrabbia. Sarri va davanti alle TV, prima Mediaset e poi Sky, non so in quale ordine, e prima rilascio questa dichiarazione. Io sinceramente ho un'età che a me non mi fa né caldo né freddo, lo dovrà spiegare ai suoi compagni, vista una mancanza di rispetto nei confronti dei suoi compagni. E poi dice quest'altra cosa. Il giornalismo è una materia strana, perché noi siamo alla settima vittoria consecutiva, ma avevi parlato del caso Zuniga e del caso Insigne. Ha ragione. Che caso è quello di un giocatore che esce arrabbiato dal campo? Magari uscissero tutti arrabbiati. Io non penso sia assolutamente un caso, anzi, più incazzato è, meglio è per noi. Vale anche per Mertens, quindi. Alla grande. Allora, ha ragione. Chiaramente i giornalisti fanno il loro lavoro, ha ragione nel sottolineare questa cosa qui. La verità, ma la verità è incazzato, che, è mancanza di rispetto? Ma non è mancanza di rispetto, l'ha detto lui. Non è mancanza di rispetto, è che Sarri, il Napoli che batte il Palermo in questo momento non fa notizia. Fa notizia Zuniga, sì, va bene, ma non è che c'è una malizia nei confronti del Napoli. Questa roba qui, al di là di casi che sono patologici e delinquenziali, che però capitano una volta ogni 10 anni, cioè qualcuno scriva della roba perché deve rompere le scatole. In generale si cercano le cose interessanti. Tante volte dico: perché parlate di una squadra che è in crisi? Parliamo della squadra in crisi perché se ne parla della squadra che è in crisi, no? Non si parla il Napoli che batte il Palermo, così come la Roma che batte l'Udinese, dal punto di vista giornalistico. Sì, sono d'accordo. Però da un punto di vista tecnico, Paolo, lì davanti sono in tanti. Overbooking di eccellenti giocatori. Posto che non puoi togliere il più forte giocatore del campionato italiano, che ripeto, sta facendo una cosa molto interessante che ha detto Sarri ieri sera, e cioè che questo gruppo in passato ha dimostrato, questo stesso gruppo, di non reggere 38 giornate. E questo è anche il motivo per il quale lui continua, cioè non c'è soltanto la scaramanzia, che pure è sicuramente presente, ma questo è il motivo che gli impedisce ancora di dire apertamente: noi puntiamo lo scudetto, perché prima vuole questo tipo di risposte. E fino a questo momento sta procedendo tutto magnificamente. Ieri abbiamo fatto la domanda su Insigne e su Mertens, perché era la prima volta che andavano a turbare quello che è un presepe in questo momento, il presepe napoletano, e anche perché, insomma, ennesima partita strepitosa, era più incuriosiva di più capire il perché di queste due arrabbiature, che quella di Mertens la capisco, non gioca mai, è un eccellente giocatore, e quindi quella di Insigne francamente no. E difatti a noi aveva dato quella prima risposta, quella sul fatto che non... che dovrà spiegare ai suoi compagni che è stata una mancanza di rispetto. Comunque voglio dire, come diceva giustamente Pier, non è che queste domande vengano fatte per stimolare delle polemiche o altro, queste domande vengono fatte perché semplicemente in una situazione del genere uno che si mette a protestare incuriosisce, devi chiedere certo. Per quale motivo. Sì, perché se per esempio se gli chiedi vincere dello scudetto, giustamente Sarri tocca, come si dice? Esatto. Se Luca, mi appari che mi sei scomparso dalla vista, come si dice a Napoli? Tocca ferro, tocca corn, come si dice? Sì, ma non tocca, si sente. Tocca ferro. Ma cioè, non siamo in televisione che fa dei gesti, fra l'altro, non belli. Dovessi dircelo con l'intercom, vabbè. Comunque, tocca i corn. È andato a ravanare, diciamo così. Sì, Sarri. Sì, ma anche De Luca. Anche De Luca. ravanavano all'unisono. No, comunque Sarri ha tutti i diritti di fare gli scongiuri, e noi abbiamo diritto di sfrucugliare nel presepe napoletano, anche perché è fondamentale quello che hai sottolineato tu, Paolo. Questa squadra, questi interpreti non sono mai riusciti a reggere al massimo per tutta una stagione, ed è per questo che dicevo prima per Luigi, magari un momento di flessione arriva, una grana arriva, e poi bisogna vedere come reagisce il Napoli. La Roma invece le grane erano già passate, con Garcia sulla graticola, Garcia un giorno sì e l'altro no, eccetera. Adesso è uscito da questa impasse. C'è sempre Dzeko, una specie di oggetto misterioso da davanti, ma tanto ci sono Gervinho e Pjanic che la sbattono dentro sempre. Sì, Sì, ma sai, questo qui, voglio dire, Allegri l'anno scorso era il migliore allenatore che avessimo mai visto, con un triplete sfiorato l'anno dopo Conte. Adesso è una pipa. E adesso è diventato un incompetente per certi colleghi. Poi, voglio dire, esistono anche diversi tipi di giornalismo. C'è il giornalismo più misurato e pacato, che è quello che cerchiamo di fare noi, e poi c'è quello estremo che spara, che spara le cose, le esagera, ma perché c'è un pubblico che apprezza anche quel tipo di giornalismo. La libertà è la merce più bella che ci sia, e poi ognuno sceglie a quale fonte andare ad abbeverarsi. È chiaro che la Roma ha dovuto superare alcune situazioni, alcuni problemi che fino a questo momento il Napoli non si verificavano abbondantemente l'anno scorso. Quest'anno ci sono state quelle prime tre giornate nelle quali siamo culminate con la dichiarazione di Maradona. Sì. Ecco, ma poi Maradona stavolta ha veramente sbagliato i tempi, perché l'ha detta, quello è stato l'apice del momento complicato del Napoli, e poi da lì in poi invece è venuta questa Maradona fa sempre bene, l'ennesima magia di Maradona, che ha detto quella cosa e da lì in poi, ha provocato una reazione per poi, cui, però insomma l'abbiamo ripetuto spesso, lì Sarri con quella risposta molto, molto elegante e quasi geniale su Maradona, secondo me ha dimostrato, e ne parlavamo l'altro giorno con Antonio Giordano, di essere cresciuto. Forse è il momento nel quale ha realmente rotto il ghiaccio dal punto di vista mediatico, che non è un dettaglio per un allenatore che non aveva mai allenato una grande squadra. Assolutamente. Quindi, poi la differenza secondo me l'ha fatta il cambio di modulo, un 4-3-3, e la condizione atletica dei giocatori, che in questo sono momento tutti è straordinario. Gli elementi che hanno portato Napoli ad essere un presente. Adesso vado a twittare la foto del maglioncino, Paolo, di De Luca. Ciao Paolo. No, grazie, ciao davvero. Ragazzi. Ciao, un abbraccio. Ripartiamo, GR, ripartiamo. 800240024. Incredibile, eccezionale. Ciao Luigi, ciao Pierluigi, ciao a tutti e due. Tutti convocati. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Di rigore, arriva anche Antonelli e il Milan la sblocca con Luca Antonelli, la sponda di Bacca, il destro vincente di Antonelli, 1-0. Napoli ancora, Higuain da lontano, ma vicino, vicinissimo al bersaglio, anzi dentro, 1-0 il Pipita. Maicon in verticale a cercare di Dzeko, buono il tocco di ritorno, ancora Maicon, avanza il brasiliano, cerca spazio, area di rigore, Maicon! Maicon, il primo in stagione, alla sua terza da titolare! In mezzo all'area di rigore, Raimondi più Pinia, D'Alessandro il cross, il velo di Raimondi, sta arrivando Gomez, Gomez! Sotto l'incrocio, Gomez! Il gol del sorpasso, un grande gol del Papu Gomez! Dentro per Rossi, posizione di ala sinistra, Rossi che mette dentro Kalinic, tutto facile per il 2-0 della Fiorentina. Rapido riassunto sonoro di tutto quello che abbiamo visto ieri sera, salvo ovviamente il meraviglioso gol di Sansone che Pierluigi Pardo ha raccontato. Attirato da, non so, Pirlo, Zidane, tirato in maniera incredibile. Mentre è disponibile su Twitter la foto del maglioncino di Giorgio De Luca, molto, della divisa, molto Badiani, molto Bruscolotti, anni 70. mi va di parlare con gli ascoltatori. Assolutamente. Ho una gran voglia. A me va sempre di parlare con gli ascoltatori. Otto, cominciando dal signor. Dal signor Luca. Luca, il Luca. Signor Luca, di da Ragusa. Dove? Ragusa Ibla? Ibla? No, Ragusa Centro. Ragusa Centro, quindi la parte nuova, diciamo, la parte moderna. Sì, la parte nuova. Ecco, Ragusa è un capolavoro. Vogliamo usare questi 30 secondi per invitare tutti a Ragusa? Sì, vi invito perché è una città meravigliosa e dove il barocco è molto bello da visitare. Una roba pazzesca. E Marina di Ragusa, sì. te la regalo. Sì, ma Ragusa è Ibla imbattibile. Vabbè, comunque, vabbè. Prego, amico di Ragusa. No. Grazie per la convocazione. Niente, io volevo sottolineare la giornata no di Gervasoni, perché ieri, dopo tanta attesa, una si siede sul divano a vedersi una bella partita e si vede rovinata dalla prima ammonizione su Chiellini e poi ne consegue l'espulsione alla mancata. Però la prima ammonizione su Chiellini, cioè dai, l'espulsione di Chiellini più è, di così. È indiscutibile. Poi no, poi magari c'era rigore per la Juve al primo minuto, il rigore su Sturaro, quello c'era. Ma l'espulsione di Chiellini non fa una piega. Cioè fa fallo, protesta, riprotesta, fa fallo che c'è, e riprotesta non ancora. Non viene ammonito, protesta, riprotesta platealmente, ancora non viene ammonito, alla fine gli arriva sotto e prende il giallo. Che deve fare un arbitro? E poi secondo giallo, penso che nessuno possa mettere in discussione, fallo da dietro durissimo e inutile a centrocampo. Poi c'era un'ammonizione per Acerbi sicuramente, poi parliamo di un sacco poi di altre cose, poteva essere, non di ci poteva essere con lo stesso principio di Lemina che non è stato espulso, Berardi ha rischiato nel finale, sì, perché non ingolosito ha tirato in porta nonostante fosse stato fermato il gioco ed era già stato ammonito. Però insomma io penso che non sia sano per la Juve, e infatti devo dire che nessuno ha tirato fuori questi argomenti. Un po' Allegri sì. Ma sì, un po' Allegri sì. Però voglio dire, insomma, non è sano in un momento come questo per la Juve concentrarsi su Gervasoni, perché sinceramente ha arbitrato male, malissimo, e probabilmente, essendo il primo episodio sbagliato a favore della Juve, cioè il fatto del calcio di rigore, ci può anche stare che la partita potesse cambiare, no? Però ha sbagliato talmente tanto da una parte e dall'altra che secondo me significa veramente andare a guardare, arbitrato, no? Male, si dice la pagliuzza, no, e non la trave, male. Ti piace questa cosa? La pagliuzza, sì. L'ho inventato adesso, guardare la pagliuzza e non la trave, esatto. Ma come ti è venuto in mente? Non lo so, così, sai, è stato, colpi è stato di un'ispirazione divina? Sì. Divina, anche, ma anche, no, anche terrena, anche terrena. No, ti dicevo Allegri perché invece di Gervasoni ha parlato. Non so chi sta a parlare di Gervasoni. Gervasoni ha arbitrato così, ha visto che dopo un minuto non c'era rigore. C'era rigore, Andrea. Visto bene. Era una gara molto complicata per Gervasoni. La comitata su Dybala non l'avrà vista, perché altrimenti non credo che se avesse vista la comitata non avrebbe espulso. Quindi è così. Intanto Flavia Pennetta ha perso contro la Sharapova l'ultima partita in carriera 7-5-6-1 al Master Donne di Singapore. Ultima partita di una carriera strepitosa. Assolutamente. Intanto andiamo a Torino da Andrea. Buongiorno. Buongiorno, quattro considerazioni. Primo, sì. Noi juventini cominciamo a parlare degli arbitri contro, dire che siamo messi male. Sì, una. Secondo, e una. Finalmente vedrò Rugani forse giocare. Terzo, forse la Juventus dovrebbe cominciare a pensare che già il terzo posto sarà un'impresa. Quarto, una cosa che ci ho pensato prima, nel senso qualche settimana fa. Forse in questo momento un Giovinco ci avrebbe fatto comodo, un po' per le punizioni, un po' perché comunque un po' di classe ce l'ha, e forse tra quelli che sono andati via, se lui non è andato via per motivi, ma via per soldi, va bene, però se gli davano magari la possibilità di essere titolare, forse restava la Juventus. Un Giovinco avrebbe fatto comodo. No. Allora io condivido la 1, la 2 e la 3. Sulla 4 ho qualche perplessità, perché gli assenti hanno sempre ragione. Cioè Giovinco voleva fare il titolare, la Juventus non gli dava questa possibilità. Non credo che Giovinco sarebbe in questo momento titolare della Juventus. No, appunto. Giovinco ha fatto una scelta economicamente molto, molto positiva, diciamo, molto però abbastanza coraggiosa dal punto di vista calcistico, e sta facendo qualcosa di incredibile. Nel senso che di solito quando i giocatori vanno in quei campionati lì tendono a sparire. Uh-huh. Fra l'altro gioca stasera, cioè Montreal Toronto, primo turno dei playoff del campionato americano, credo alle ore 19. Italiane, mi pare, no, forse no, le 19, quindi intorno all'una orario italiano, mezzanotte orario italiano, e siamo curiosi di vedere. Ma insomma, è stato capocannoniere della regular season, sta facendo... superstar assoluta, quindi è veramente un caso da studiare e da sottolineare in positivo, perché è andato in un campionato che conta poco, dove la possibilità di essere considerati nella periferia del mondo era molto alta, e invece sta facendo benissimo. Senti, dimmi una cosa sul Milan, non abbiamo ancora parlato. Ieri ha continuato la sua piccola cura senza brillare. Donnarumma ancora confermato, ha giocato molto bene, ha trovato questo gol nel finale bellissimo con Antonelli, non ha dato l'impressione di essere guarito per niente, ma soprattutto Pierluigi, 6.000 e qualcosa spettatori paganti, cioè sono numeri da... Attento a questi numeri, che ti ricordi Galliani quella volta con Alciato quando... Botteghino, no, è botteghino, però ci possiamo andare anche gli abbonati, allora arriviamo, no, adesso, ma gli abbonati che erano a casa loro a guardare. Al di là delle battute, è chiaro che il Milan attraversa una fase di crisi di consenso con i propri tifosi, questo è evidente. Io onestamente non pensavo che in un modo o nell'altro sarebbe riuscito a portare a casa 6 punti fra Sassuolo e Chievo, no? E io pensavo che una delle due la sbagliasse, invece l'ha fatti, anche se sicuramente Milan-Sassuolo è una partita, lo diciamo, insomma, chiaramente anche condizionata dall'episodio del calcio di rigore con espulsione, sì. Però insomma mi sembra che adesso arrivi e sia tornato nella possibilità di andare a giocare una partita ben più impegnativa, ben più difficile, quella contro la Lazio domenica, e in caso di risultato positivo, beh, insomma, a quel punto sarebbe un altro, potrebbe cominciare un altro campionato. Però non è una faccia migliore. I problemi non sono risolti, la squadra è ancora fragile, però sai, è un lento processo di... è come quando dimagrisci, perché parli questa cosa? No? Cioè, è dura, però ogni chilo che perdi, non so perché sto parlando di questa cosa, non faccio la dieta dal 78, però ogni chilo che perdi ti dà la carica per perderne un altro, sì. E Milan è questo, Milan era dentro l'armadio, piano piano sta uscendo da questo armadio e fra un po' vedrà la luce, ecco. Tu dici? Potrebbe. Io non sono convintissimo. No, anch'io scusami, vedrà la luce, ho sbagliato, potrebbe tornare a vedere la luce, però intanto queste due partite ho potrebbero aver costruito luce. Un po' di autostima, i problemi rimangono lì, sono tutti sul tappeto, insomma. Squadra un pochino più ordinata ieri, mi è sembrata. Sì. Un po' più ordinata. Poco altro, però. Giuseppe, provincia di Bari, buonasera. Buongiorno. Buonasera, grazie per la convocazione, complimenti per la trasmissione. Grazie. Guarda Gervinio, che roba. No, mi scusi la divagazione, sto guardando tutti i gol che ha messo in fila Gervinio, l'indesiderato uno dietro l'altro. Sembra una partita di tennis. Signor Gervinio. Sembra una partita di tennis tra Higuain da una parte e lui e Pjanic dall'altra. Segna Higuain, segna Gervinio, segna Higuain, segna Pjanic. Pazzesco. Dica Giuseppe, mi scusi l'interruzione. No, prego. Intervengo per quanto riguarda il discorso dal punto di vista mediatico di Sarri, allenatore del Napoli. Che mi sembra un atteggiamento giusto per una piazza come quella di Napoli, tra l'altro sono anche tifoso del Napoli, la quale tendenzialmente si esalta per piccole cose e allo stesso tempo si deprime facilmente, e quindi per come sta gestendo la squadra, anche il caso Insigne, mi sembra il giusto atteggiamento per cercare di costruire qualcosa di serio importante su quella piazza, insomma, questo era il mio pensiero. Tra l'altro non so se l'accostamento possa essere, come si dice, giusto, mi sembra un po' un piccolo Mourinho per come gestisce i rapporti con la stampa e con chi lo critica, insomma. Sì, invece secondo me no, perché è simpatico Sarri, non è antagonistico, molto vero. Anche Mourinho è simpatico, diciamocelo apertamente, è simpaticissimo, però, è sempre stato però molto simpatico, è una simpatia pure, che nasce dall'essere un po' da giocare a fare il figlio di, ecco, no? Quello strafigo che sta lì, che è antagonistico, cioè che penso l'ultima uscita di Mourinho, quella dei titoli, quella quando è uscito l'altro giorno quando ha perso con lo Stock in Coppa di Lega, che ha detto rigori. Aspetta, sentiamo. Sì. My general situation is fantastic. I have a day off tomorrow. Fantastic family. I can sleep well every night. I'm going to enjoy my day. And Thursday, one more day like I had in the last 15 years of my life. Mica male. La mia vita è fantastica. Domani mi riposo. Domani è il mio giorno di riposo. Famiglia fantastica. Famiglia fantastica, non ho problemi a dormire. non ha, perché non ha aggiunto me danno un sacco di sordi? Vabbè, quello era scontato. Giovedì torno a fare la cosa che faccio da 15 anni. No, ma è... No, ma insomma, l'intelligenza è sempre sexy. L'intelligenza sì. è sempre sexy. Poi esistono, Sarri lo è. Esistono Sarri tipi lo è. Di intelligenza e tipi di personalità. Cioè c'è chi cerca c'è chi si diverte a fare l'antagonista nel senso non politico, ma nel senso appunto di stabilire un rapporto antagonistico con i giornalisti, con i giocatori, con i propri rivali. Chi ha un approccio più morbido. Però l'intelligenza è sempre sexy, non c'è niente da fare. Quando senti il neurone che c'è. Sì, ti conquista. In questo Sarri, ma non a caso parlavamo prima della sua uscita su Maradona, perché lì ha girato la chiave, perché lì la situazione non bisogna dimenticarsela, era che tutti, anch'io mi ci mettevo, erano perplessi per l'inizio di stagione del Napoli, che aveva fatto 3 partite, aveva subito 6 gol, non aveva brillato, non aveva ancora vinta una, arriva Maradona, che è un totem, e dice quello che in quel momento tutti i napoletani pensavano, cioè Non è buono abbastanza, è una brava persona. E lui ne esce in quel modo lì. Ne esce, l'ho detto subito, ne esce con grandissima qualità e quella è una genialata. Una classe infinita. Poi è chiaro, se avesse perso con la Lazio il 20 o avesse pareggiato in casa col Bruges in quel giovedì subito dopo, le cose non sarebbero migliorate. Però in quella risposta c'è l'intelligenza e la capacità di misurarsi con il tipo d'ambiente, insomma. Ciao Alessandro Pasini. Buonasera. Ciao. Come va? Come va? A proposito di agonismo e antagonismo, stai tenendo conto dei video su quello che è ormai il contatto con la C maiuscola o forse con tutte le lettere maiuscole? Non se ne può più, ne esce uno al minuto, ognuno ci fa cambiare il idea. Il tassametro corre a che punto a che numero siamo? È un'idea? Non lo so, però sono tanti. Aspettiamo quello dell'amatore, sai che a un certo punto c'è sempre quello di un telefonino. Esatto, il telefonino che diventa la verità con la V maiuscola. Non lo so, io credo che sarebbe meglio adesso fermarsi un attimo e aspettare, perché settimana prossima sarà una bolgia. Vai a Valencia con l'elmetto, insomma. Sì, stiamo preparando l'elmetto, assicurazione, tutto, perché può veramente, io insomma francamente sono preoccupato, ma non riesco neanche a immaginarmi che cosa può accadere, perché parlando diciamo peggio di così, chissà, insomma, invece forse, io mi auguro di no, però la situazione è veramente ingestibile, anche perché non mi sembra che né i due protagonisti né il resto del mondo della MotoGP sia disposto a patteggiare, ad attenuare un po' i tempi. In politica direbbero a fare un passo indietro, no? Che è quella frase che non vuol dire nulla mai, perché poi nessuno lo fa mai, quindi sarà tremendo. Io non vorrei essere nei panni dei piloti che non c'entrano niente, cioè quasi tutti, perché qualunque cosa faranno taglieranno, perché se ti sposti vuol dire che sei amico di questo, se fai battaglia sei amico di quell'altro. Insomma, quindi è una situazione veramente complessa, complicata, senza dimenticare che in moto se cadi ti fai male, quindi c'è questa variabile in più. Passo. E quindi andiamo a vedere. Scusate se porto un po' delle miserie del calcio in un ambiente molto più pane e salame, ma ci sono rischi di ordine pubblico? Insomma, ieri è spuntato questo striscione al San Paolo, che è un po' esagerato, ragazzi. No, damose una calmata. Ecco, a Valencia senza regole, tibie e perone. Sì. Insomma, che mi sembra ecco, no, l'importante è che non si faccia male invece... nessuno. Ma un po' ci possono essere, io ricordo che anni fa, no, io non ho una memoria precisa, ma comunque Marco Simoncelli dovette andare a un Gran Premio spagnolo con le guardie del corpo perché ricevette minacce di morte, perché la gara prima aveva avuto un contatto con Pedrosa, eccetera eccetera. Questo per dire che insomma la situazione insomma fu spiacevole, ovviamente potete immaginare, poi non successe niente ovviamente, però infatti qualche giornale ha messo la mappa delle tifoserie, perché sapete che sulle tribune, nei circuiti ci sono i vari fan club tutti raccolti in un punto, ci sono già c'è già la mappa delle tifoserie. No, appunto, cioè, non vorrei dare gli italiani, quindi il rischio c'è, idee strane e malsane a qualcuno, oppure fare la caccia alle streghe, però sai, il vostro mondo, viva Dio, è un mondo che insomma dove c'è un po' di polizia ovviamente per regolare il traffico, io quest'anno sono stato a vedere il Gran Premio di Monza, insomma è tutta una festa, poi c'è uno che tifa per Hamilton, uno che tifa per Vettel, però sostanzialmente c'è quel tipo concerto, di clima, ecco, qui c'è forse per la prima volta l'applicazione di una dinamica e di una dialettica che invece è veramente da Italia-Spagna, da Valentino contro Marquez, ed è diventata spiacevole, perché comunque andrà a finire questo mondiale, io penso che poi qualcuno, insomma, ci saranno polemiche, ci sarà qualcuno che sarà scontento, che è stato influenzato in un modo o nell'altro. La strada perché possa finire questo mondiale senza polemiche è strettissima, cioè è che Valentino dall'ultima posizione riesca con merito clamoroso a rimontare, però se rimonta diranno che c'è qualcuno che l'ha fatto passare, cioè non c'è una legge, oppure che Lorenzo senza farsi male, però sai cosa, manca qualcuno che dia una calmata a tutti quanti, cioè non ho ancora sentito una voce che dica ok ragazzi adesso però basta, corriamo l'ultima corsa, non fate stupidaggini al circuito, fate i bravi, state tranquilli, arrivate col biglietto, insomma non ho ancora sentito una voce di questo tipo. Ma guarda, da parte, Carlo, di chi conta dire, Ale, bisogna dire che chi conta generalmente non si fa molto sentire in questo ambiente, non a caso molti hanno accusato la direzione corsa, no? di una latitanza sia prima che durante la corsa e di una insomma scarsa chiarezza nella sentenza, quindi questo a me non sorprende. Io credo che tutto dipenderà maggiormente dall'autodeterminazione dei protagonisti, se capiranno che c'è un limite da non superare. Le case si stanno adoperando, perché Honda e Yamaha insomma stanno ovviamente cercando di mettere ordine, però poi una volta che sei in pista è un disastro. Quanto al pubblico, è vero, la deriva calcistica di questa situazione è stata sottolineata da molti, insomma, che è anche un peccato che il calcio diventi sempre la pietra di paragone negativo, no? Ogni volta dice come il calcio, quindi questo vabbè, no, anche questo perché, è un altro discorso. Anche perché lo diciamo a bassissima voce, scusami Ale. No, figurati. Inizio di campionato, no? Mi sembra tutto. Non lo diciamo ad alta voce perché dovrebbe essere la norma, però infatti, insomma è tutto normale. Piano piano, infatti, capito? Infatti, poi ci sono situazioni spiacevoli. Puoi vedere che si normalizza il calcio, cioè si pacifica il calcio e diventano violenti gli altri sport. Speriamo di no. Insomma, questa chiaramente è una situazione limite. Io non direi che la MotoGP, no, è diventato uno sport. No, assolutamente. Ecco, fin qui no. Il problema è che questo è un caso limite che io circoscriverei veramente, al di là di ogni posizione su complotti, eccetera, cose, la Spectre, la CIA. In realtà è l'odio emerso fra due ex amici. Io non vorrei fare della psicologia, ma questa è veramente una faida fra due persone che forse si sono sentite entrambe tradite dall'altro. Non lo so, non voglio fare. Però insomma la situazione è questa, non è tanto un movimento allo sbando, che sono due che sono andati fuori di testa, poi ognuno potrà decidere di chi è la colpa, insomma ognuno ha la sua posizione in base al tifo eccetera, sono andati fuori di testa, se le sono date in pista, il problema è che si portano dietro adesso a Valencia, e Pierluigi ha ragione, un movimento intero, perché di questo è inutile, cioè non possiamo far finta che non sia così. È chiaro che dal punto di vista mediatico, ciao Alessandro, ciao, dal Ale, punto di vista mediatico questa roba qui è una figata pazzesca, cioè non so che ascolti farà il mio amico Guido Meda, ma immagino mostruosi, e sarà una cosa, è un grandissimo evento ed è normale che sia così, però poi c'è un dopo, certo. E quindi il modo in cui finirà questo voto mondiale è un po' il discorso che faceva Pernat l'altro giorno, c'è un'altra partita ben più importante, ben più di prospettiva, chiaro, sulla credibilità di questo sport e sulla eleganza ovviamente di questa. Sette secondi di autopromozione come ha dato Tiki-Taka l'altro giorno? No, beh, sono usciti ieri nelle ultime due puntate in maniera clamorosa, nonostante l'orario, con dei numeri pazzeschi, soprattutto di teste, come si dice in gergo, cioè lo share, grazie, ma non da l'una di notte. No. Numeri di spettatori. Più di 500.000 tra l'una e le due di notte. Io mi chiedo il martedì mattina se non vorrei essere considerato responsabile, ecco, non c'entro niente, se il PIL Renzi, ecco. Non... E per quanto ci riguarda, invece, da lunedì prossimo, che succede? Se volete ci vediamo in televisione, Gazzetta TV. Ah, certo, fantastico, il dottor Genta fa carriera, Ma che carriera. Fa carriera, ha vinto tra l'altro un ballottaggio con un'altra, vabbè, non posso dire niente. Però, ciao a tutti. Gazzetta ha vinto. Ciao a tutti. È finita! È finita!